leggere nel cielo, mai nessuno può, mai nessuno sa. Prigioniero del suo destino, sempre ogni cuor sarà. Noi chiediamo al cielo ogni giorno un po' di felicità e restiamo prigionieri della fatalità. Ma qualcosa nella vita dà speranza. Leggere nel cielo, mai nessuno può, mai nessuno sa. Prigionieri di leggi oscure, solo l'amore ci può salvare.